Kaput ya karena kayu itu. Pero por su cebosa se dice. Tiene corriente que va a ir no, no va a ir. Tiene amor de la gente que por donde ya tiene su cuerpo. Non ti sento la cresta di un po' di dolore. No, non ti mi si va a mettere in più. Mi scelgo da te, non ti va a mettere in più. Thank you. Thank you.